Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il Commesso di Bernard Malamud, traduzione di Giancarlo Buzzi. Un sabato mattina di dicembre, Morris, dopo essere stato di sopra poco più di 2 impazienti settimane, venne giù con la testa guarita. La sera prima Ida disse a Frank che avrebbe dovuto andarsene all'indomani, ma quando più tardi Morris lo seppe, ne nacque una discussione. Benché non ne avesse fatto cenno a Ida, il negoziante, dopo la lunga parentesi di inattività, si sentiva depresso all'idea di dover riprendere la sua monotona esistenza in negozio. Paventava l'inerzia delle ore morte che gli portavano per lo più tristi ricordi degli anni della sua giovinezza sciupati. Che gli affari andassero meglio lo consolava un poco, ma non abbastanza, perché da quanto Ida gli aveva detto, gli era nata la convinzione che fosse tutto merito del commesso, che gli ricordava come un forestiero con la fame negli occhi, un uomo da compiangere. La ragione del miglioramento del negozio era abbastanza semplice. Non era perché questo abitante di cantine fosse un mago, ma perché non era ebreo. I goim del vicinato si trovavano meglio con uno dei loro. Un ebreo stava loro sul gozzo. Sì, c'erano stati momenti in cui erano venuti nel suo negozio, lo avevano chiamato col nome di battesimo e gli avevano chiesto credito come se fosse stato suo obbligo concederlo, cosa che in passato aveva fatto spesso scioccamente. Ma in cuor loro lo odiavano. Se no, la presenza di Frank non avrebbe potuto così rapidamente incidere sulle sue entrate. Morris temeva che gli attuali 45 dollari extra alla settimana si sarebbero volatilizzati dalla sera al mattino se l'italiano se ne fosse andato, e lo disse a Ida con energia. Pur temendo di dovergli dar ragione, lei insistette a dire che dovevano mandar via Frank. Come potevano, gli chiese, farlo lavorare 7 giorni alla settimana, 12 ore al giorno, per 5 miserabili dollari? Era ingiusto. Il negoziante era d'accordo. Ma perché mettere il ragazzo sulla strada se voleva restare? I 5 dollari ammise non erano nulla, ma il mangiare e il dormire, i pacchetti di sigarette e le bottiglie di birra che, a dire di Ida, Frank si scolava in negozio. Se le cose continuavano bene, gli avrebbe offerto di più, magari anche una piccola commissione, molto piccola. «Come possono lavorare 3 persone in un negozio così piccolo?» lei gridò. «Tieni a riposo i piedi malati», egli ribatté. «Dormi di più al mattino e fermati di più su in casa. Che bisogno c'è che tu sia così stanca ogni sera?» «E poi», commentò Ida, «chi lo vuole nel retro tutta la notte, così dopo che è chiuso il negozio, se dimentichiamo qualcosa non possiamo entrare?» Anche a questo ho pensato. Credo che ridurrò l'affitto di Nick di un paio di dollari, dicendogli che dovrebbe dare a Frank lo stanzino per dormirci. A loro serve solo da ripostiglio. Lì, con coperte a sufficienza, starebbe benone. La porta dà direttamente sul vestibolo, così può entrare e uscire con la sua chiave senza disturbare nessuno. Per lavarsi può scendere in negozio. Un paio di dollari in meno sull'affitto escono anche quelli dalle nostre povere tasche, rispose Ida stringendosi le mani sul petto. Ma la cosa più importante è che non lo voglio qui per via di Helen. Non mi va come la guarda. Morris le rivolse un'occhiata. Sicché magari ti va come la guarda Nette o Louis Carp, è il modo di guardare dei ragazzi. Dimmi piuttosto lei come lo guarda. Ida scosse le spalle, risentita. Lo sai anche tu che Helen non si interesserebbe a un ragazzo così. Un garzone di bottega non le interessa. Ti pare che esca coi commessi del posto dove lavora quando glielo chiedono? No, vuole di meglio e tu lascia che abbia di meglio. Morris sentiva che il suo umore mutava. Era d'umore migliore di quanto si fosse aspettato. Alcuni dei vecchi clienti erano tornati. Una donna gli disse che Schmitz non faceva più lo stesso buon servizio di un tempo. La salute gli dava dei grattacapi e pensava di vendere il negozio. Che venda pure, pensò Morris, che muoia. Ma poi si battesse veramente il petto. Il negoziante andava d'accordo con il suo commesso. Si dividevano i compiti e servivano a turno i clienti, benché gli intervalli tra un cliente e l'altro fossero ancora troppo lunghi. Nel retro, lui e Morris passavano molto tempo a chiacchierare. A Morris piaceva la compagnia di Frank. Gli piaceva sentir raccontare di luoghi strani e Frank gli descriveva alcune città dove era stato durante i suoi lunghi vagabondaggi e i diversi mestieri che aveva fatto. Aveva trascorso parte dell'infanzia a Oakland, in California, ma la maggior parte del tempo sul lato opposto della baia, a San Francisco, in un orfanotrofio. Quando erano insieme al banco, Morris teneva d'occhio Frank e cercava di perfezionare alcune delle cose che Ida gli aveva insegnato. Il garzone faceva molto bene il suo lavoro, quasi vergognandosi che qualcuno potesse imparare il mestiere con tanta facilità. Morris gli spiegò come fosse diverso solo pochi anni prima fare il negoziante. Allora un negoziante aveva più dell'artigiano. Oggigiorno a chi si chiedeva più di affettare una pagnotta per un cliente o di versare col mestolo un quarto di latte? Ora tutto è già confezionato, in scatola, in vaso, in pacchetto. Perfino i formaggi stagionati, che da centinaia d'anni si sono tagliati a mano, ora ti arrivano già affettati e avvolti nel cellophane. Non occorre più sapere nulla. Ricordo i recipienti del latte che si usavano in famiglia, disse Frank, solo che i miei mi mandavano a prenderci la birra. Ma Morris disse che era una buona idea non vendere più il latte sciolto. Conoscevo dei negozianti che toglievano dai recipienti un quarto o due di crema e poi aggiungevano acqua. E questo latte annacquato lo vendevano al prezzo del latte normale. Perché non prova anche lei qualcuno di questi trucchi? Il suo guadagno è scarso. Morris lo guardò stupito. Perché dovrei derubare i miei clienti? Forse che loro mi derubano? Se potessero, lo farebbero. Quando un uomo è onesto, dorme tranquillo. E questo vale più di 5 cents rubati. Frank annuì, ma continuò a rubare. Smetteva per qualche giorno, poi, quasi con sollievo, ricominciava. C'erano momenti in cui rubare lo faceva star bene. Faceva piacere avere un po' di spiccioli in tasca e faceva piacere fregare un dollaro di sotto al naso a un ebreo. Se lo infilava in tasca con tanta destrezza che doveva fare uno sforzo per non scoppiare a ridere. E c'erano giorni in cui era stanco morto di tutto. Ne aveva fin sopra i capelli ormai. Quando scendeva al mattino, pensava che se il negozio avesse preso fuoco, lui lo avrebbe volentieri aiutato a bruciare. Se pensava alla vita di Morris, a servire per anni, giorno dopo giorno, gli stessi miserabili clienti che con le dita sudice sceglievano le stesse merci da 4 soldi, che poi mangiavano tutti i santi giorni della loro esistenza pidocchiosa e poi, una volta che se n'erano andati, aspettare che tornassero. Quando ci pensava, provava il desiderio di scavalcare la ringhiera e di farla finita. Che razza d'uomo bisognava essere per seppellirsi in una cassa da morto ammuffita e mai una volta durante il giorno mettere il naso fuori dall'uscio per respirare una boccata d'aria se non per andare a prendere il giornale Yiddish? Non era difficile rispondere. Bisognava essere ebreo. Erano nati prigionieri gli ebrei. Così era Morris. con la sua implacabile pazienza o sopportazione o cosa diavolo fosse. Per questo vivono, pensava Frank, per soffrire. Chi ha più mal di pancia e riesce a tenersi più a lungo senza correre al gabinetto, quello è il miglior ebreo. Non c'era da meravigliarsi se gli davano sui nervi. Il dicembre era sempre rigido. Helen si svegliava ogni giorno nel gelo e nella solitudine con un senso di pena. Una domenica pomeriggio, che l'inverno si era addolcito per un'ora, uscì per una passeggiata. D'un tratto perdonò tutto a tutti. Bastava un soffio d'aria tiepida per essere di nuovo grati alla vita. Ma ben presto il sole sparì e cadde una fitta neve. Tornò a casa oppressa. Frank era fermo all'angolo deserto accanto al negozio di Saint Pearl, ma pur passandogli vicino, Helen parve non vederlo nemmeno. Lui se ne addolorò, la desiderava, ma le cose erano proprio malmesse. Loro erano ebrei e lui no. Se avesse cominciato a uscire con lei, sua madre ne avrebbe fatto una doppia tragedia e Morris pure. Helen, dal canto suo, gli faceva capire, dal modo in cui si comportava, anche quando pareva più sola, di avere per la sua vita dei piani ambiziosi che non includevano certo un Frank Alpine. Non aveva nulla, lui. Un passato di stenti, un crimine commesso contro il padre di lei, e nonostante i rimorsi, lo stava anche derubando. Fino a che punto una cosa impossibile può essere complicata? Vedeva un solo modo per uscire dal vicolo cieco: cominciare a liberarsi dal peso che si teneva dentro, confessando a Morris di essere uno dei due rapinatori. L'aspetto curioso della faccenda era che in fondo non gli dispiaceva che lui e Ward avessero aggredito un ebreo. Non aveva previsto però di potersi dispiacere per quell'ebreo in particolare, per Bober. Adesso comunque era davvero dispiaciuto. Non se ne era preoccupato prima del fatto, ma quello che non lo aveva preoccupato allora non contava più. Contava come si sentiva ora, e ora gli dispiaceva di averlo fatto. E quando vedeva Helen, gli dispiaceva ancora di più. Come prima cosa bisognava dunque confessare. Era come una spina in gola. Dal momento in cui aveva seguito Ward Minogue nel negozio di alimentari quella sera, aveva avuto la sensazione penosa che quel che ora s'era messo a fare, un giorno o l'altro, avrebbe dovuto rivomitarlo in parole, per quanta fatica o disgusto gli fosse costato. Capiva di averlo saputo, una sensazione spaventosa, molto tempo prima di entrare a rapinare il negozio, prima di incontrare Minogue, o prima ancora, quando non si era ancora trasferito nell'est. Sentiva di averlo saputo per tutta la vita che un giorno, con la gola contratta dalla vergogna e lo sguardo nella polvere, gli sarebbe toccato confessare a qualche povero figlio di puttana d'essere lui quello che gli aveva fatto del male e che l'aveva tradito. Questo pensiero l'avrebbe sempre dilaniato, un senso di sete che non avrebbe mai potuto placare, un bisogno disgustoso di espellere da sé tutto quanto era accaduto, perché qualunque cosa fosse accaduta era sbagliata. Ripulire la mente da se stessa e metterci un po' di pace, di ordine, cambiare il principio cominciando dal passato che sempre, prodigiosamente, appestava il presente, cambiare vita prima d'essere soffocato dal fetore. Cercava di dirsi che era stato furbo a non confessare al negoziante più di quel che aveva confessato. Era più che sufficiente. Del resto, a quale confessione aveva diritto l'ebreo? $7.50 li aveva presi e glieli aveva rimessi in cassa, e la botta in testa gliel'aveva data Ward, che lui d'altronde aveva accompagnato controvoglia. Consenziente magari, ma non su ciò che era accaduto alla fine. Bisognava pur tenerne un po' conto, no? Per giunta, lui aveva pregato Ward di non fare del male a nessuno e in seguito aveva rifiutato di aiutarlo quando aveva progettato un altro colpo ai danni di Carp, che avrebbe dovuto essere il loro obiettivo fin dalla prima volta. Ciò dimostrava i suoi buoni propositi per il futuro, no? E chi, dopo l'accaduto, se n'era stato ad aspettare tremando nel buio e nel freddo per portar dentro a Morris le cassette del latte e si era consumato il di dietro sgobbando 12 ore al giorno mentre l'ebreo se ne stava a letto? E chi, anche adesso, gli impediva di crepare di fame nella sua topaia? Anche di questo bisognava tener conto. Si diceva queste cose, ma il loro effetto non durava per molto e ben presto tornava a spremersi il cervello per scoprire come sottrarsi al pensiero di ciò che aveva fatto. Prometteva a se stesso che un giorno o l'altro avrebbe confessato tutto. Se Morris avesse accettato la sua spiegazione e le sue solenni scuse, ciò avrebbe sgombrato il terreno per il passo successivo. Quanto ai suoi attuali furti dalla cassa, aveva deciso che una volta raccontato al negoziante tutto quello che c'era da dire della rapina, avrebbe subito cominciato a rimettere nel cassetto, detraendoli dal modesto salario e dai pochi risparmi in banca, i denari che aveva preso, sistemando così anche questa faccenda. Non per questo Helen si sarebbe innamorata di lui di punto in bianco. Poteva verificarsi l'opposto, ma se ciò fosse accaduto, lui non si sarebbe più dovuto sentire a disagio. Sapeva a memoria cosa avrebbe detto al negoziante una volta che si fosse deciso. Un giorno che fossero stati a parlare nel retro, avrebbe cominciato, come avevano già fatto una volta, a dire di come la sua vita fosse quasi tutta fatta di occasioni perdute, alcune così promettenti che non gli reggeva l'animo a ricordarle. Bene, dopo molti fallimenti dovuti a vari motivi, per lo più errori suoi e di cui egli si pentiva moltissimo, dopo tanti fallimenti del genere, benché cercasse in ogni modo di superarli, di solito non ce la faceva. Sicché a un certo punto si era dato per vinto e si era messo a vivere come un vagabondo. Abitava nelle fogne, nelle cantine quando gli andava bene, dormiva per terra, mangiava ciò che non avrebbero mangiato i cani e quel che pescava nelle immondizie. Si metteva addosso quel che gli capitava, si addormentava dove si trovava e trangugiava qualsiasi cosa. C'era di che lasciarci la pelle e invece aveva resistito, con la barba incolta, puzzolente, trascinandosi di mese in mese senza un filo di speranza a cui aggrapparsi. Per quanti mesi avesse continuato una simile esistenza, non lo sapeva. Ma un giorno, mentre giaceva in un buco qualsiasi in cui si era andato a rannicchiare, gli era venuta la fantastica idea di essere in realtà una persona importante. Ed era stato strappato alle sue fantasticherie dal pensiero di stare vivendo quella vita solo perché non aveva capito di essere destinato a qualcosa di infinitamente migliore, a fare qualcosa di grande, di diverso. Fino a quel momento non lo aveva capito. Prima aveva sempre pensato a se stesso come a un uomo comune, ma lì, in quella cantina, aveva capito d'essersi ingannato. Ecco perché la fortuna gli aveva così spesso voltato le spalle, perché aveva un'opinione errata di quel che egli era realmente e aveva sciupato le sue energie nella direzione sbagliata. Poi, quando si era chiesto che cosa dovesse fare, gli era venuta un'altra idea formidabile. Era destinato al crimine. A volte quest'idea l'aveva stuzzicato, ma ora non lo abbandonava più. Dandosi al delitto, avrebbe mutato la propria sorte, creato l'avventura, vissuto come un principe. Aveva tremato di gioia, immaginando rapine, assalti, omicidi, se necessario. Ogni atto violento lo aiutava a soddisfare il desiderio che qualcuno soffrisse mentre la sua fortuna migliorava. Aveva provato un infinito sollievo pensando che se uno riusciva a immaginare per sé qualcosa di grande, qualcosa di diverso nella propria vita, aveva maggiore possibilità di poterlo avere rispetto a un povero stupido che non arrivava così in alto coi suoi pensieri. Così aveva rinunciato alla sua esistenza di vagabondo. Aveva ricominciato a lavorare, si era preso una camera e coi suoi risparmi aveva comprato una pistola. Poi si era diretto a Est, dove pensava di poter vivere come desiderava, dove c'erano soldi, locali notturni, ragazze. Dopo essere stato a zonzo per Boston per una settimana, senza sapere di preciso da dove cominciare, era saltato su un treno merci che andava a Brooklyn e lì, pochi giorni dopo, aveva conosciuto Ward Minogue. Una sera, mentre giocavano al biliardo, Ward, con l'astuzia, era riuscito a scoprire che Frank aveva una rivoltella e gli aveva proposto di fare un colpo in società. A Frank l'idea di cominciare in qualche modo era piaciuta, ma aveva voluto un po' di tempo per pensarci. Era andato a Coney Island e mentre era seduto sulla passeggiata, meditando sul da farsi, era stato assalito dalla sensazione opprimente di essere pedinato da qualcuno. Voltandosi, aveva visto che era Ward Minogue. Ward si era seduto e gli aveva detto che aveva in mente di derubare un ebreo. E Frank aveva consentito ad andare con lui. Ma la sera del colpo si era sentito nervoso. Ward, accortosene, l'aveva insultato. Frank aveva capito che doveva farcela, ma nell'attimo in cui si erano trovati tutti e due nella drogheria e si erano legati i fazzoletti sul viso, l'idea gli era parsa completamente priva di senso. Aveva avuto la sensazione che gli schizzasse via di mente. I suoi piani delittuosi si erano afflosciati e spenti. Nella sua infelicità poteva a malapena respirare. Avrebbe voluto precipitarsi in strada ed essere assorbito dal nulla, ma non poteva lasciare Ward lì da solo. Nel retro, nauseato dalla vista della testa insanguinata dell'ebreo, aveva capito di aver commesso l'errore più grave e più difficile da cancellare. E ciò aveva posto fine alla sua breve carriera nel crimine violento, altro assurdo miraggio, e l'aveva impigliato più di prima nei propri fallimenti. Tutto ciò, pensava di raccontare un giorno a Morris, conosceva abbastanza bene l'ebreo da sentirsi sicuro del suo perdono. Eppure c'erano momenti in cui immaginava invece di raccontare tutto a Helen. Voleva fare qualcosa che le aprisse gli occhi sulla sua vera persona, ma chi poteva fare l'eroe in un negozio di alimentari? Ci sarebbe voluto del fegato per raccontarglielo, e avere del fegato non era tanto facile. Continuava a pensare di meritare una sorte migliore e che questa sorte migliore gli sarebbe toccata se una volta, una sola volta, avesse fatto la cosa giusta al momento giusto. Magari, se gli fosse capitato una volta di stare con lei per un sufficiente lasso di tempo, le avrebbe chiesto di dargli ascolto. Forse in principio si sarebbe sentita imbarazzata, ma quando avesse cominciato a raccontarle della sua vita, sapeva che lo avrebbe ascoltato fino in fondo. Dopo, chissà, con una ragazza quello che conta è cominciare. Ma quando ragionava con freddezza e si rendeva conto di quanto sentimentalismo ci fosse nelle sue fantasie, in cuor suo era un italiano sentimentale, capiva che stava ancora una volta inseguendo uno dei suoi sogni. Che possibilità pensava di avere con lei se le avesse confessato di aver rapinato suo padre? Si convinse dunque che la cosa migliore era stare zitto. Nello stesso tempo gli si insinuò nell'animo il presentimento che se non diceva nulla adesso, presto avrebbe avuto un passato ancora più sporco da confessare.